falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. Oggi gli ingredienti ci sono veramente tutti, gli ingredienti perché voi rimaniate lì senza scendere dalla macchina se siete in macchina o senza andare in macchina se siete a casa, perché la storia che raccontiamo oggi parte dai palcoscenici delle più importanti manifestazioni canore italiane e poi finisce nelle aule dei tribunali. Si inizia parlando di passione per la musica, di qualità vocali, e poi si parla di passione e basta, e poi si scende nel baratro dell'omicidio più efferato. Oggi la protagonista della nostra puntata è una cantante che forse in pochi ricorderanno, ma questa cantante, che si chiama Graziella Franchini, che è nota con il suo nome d'arte Lolita, è stata, ahimè, vittima di uno degli episodi più crudeli della categoria che possiamo definire delitti passionali. Lolita, un nome che ricorda il famoso romanzo di Vladimir Nabokov, è poi diventato un bellissimo film, ricorderete l'immagine della locandina, quella ambigua ragazzina bionda con gli occhiali da sole a forma di cuore. Bene, questo nome d'arte viene dato a Graziella Franchini da quella che sarà la sua manager, la cantante e produttrice discografica Mara Del Rio. Mi insegnasti tutto nell'amore. Io dico di Lolita ce n'è una sola, e di cantanti ne ho conosciute tante, le ho sentite cantare, ma il timbro di voce che aveva lei, questa figurina così particolarissima. La mia vita non ha domani. Io non le ho più sentite. Un pomeriggio viene e me la porta, io senza farla arrivare vicino a me, come la vedo da lontano, dico Lolita, l'ho chiamata subito così. Non ho fatto niente di strano per mettergli questo nome quando l'ho vista, perché aveva già tutto quello che deve avere una ragazza che deve uscire, che deve sfondare. Effettivamente Graziella ha una voce bellissima, molto potente, fin da piccola. Allora nasce a Castagnaro, in provincia di Verona, il 1 gennaio 1951. Nasce già con la passione per il canto, e ha 15 anni quando, durante uno spettacolo in una parrocchia di Bollate, in provincia di Milano, viene notata dal maestro Franco Chiaravalle. La Rita era dotatissima e aveva anche carattere, solamente che era un po', diciamo così, indolente, cioè pigra, molto pigra. E questa è una delle ragioni per cui non ha fatto più di quello che ha fatto, perché era bravissima. Era una che prendeva un po' le cose così, era una ragazza semplice, non era rivista. Delle volte mi faceva rabbia per questo, prendeva le cose così. Lei era forte, però era, come posso dire, prendeva le cose un po' così, era una sempliciona. Beh, è una ragazza semplice, forse pigra, come dice il maestro Chiaravalle, però ha talento, una forte personalità, e quindi il maestro la presenta a Mara Del Rio e la discografica prepara un debutto per Lolita. La ribattezza così a causa del suo fisico da ragazzina, bionda, esile, ma molto intrigante. E lei partecipa quello stesso anno al Festival di Pesaro, che allora era uno dei viatici, insomma, per i festival più grossi, e lo vince con questa canzone. E non entri mai in un bar, non sei tipo da jukebox, no. Tu sei Matusalemme, tu sei Matusalemme, tu stai gettando al vento le cose più importanti, la tua giovane età, la è giovanissima, è carina, canta bene, questa canzone la lancia. L'anno dopo, a 16 anni, partecipa al Festival di Zurigo, vince anche quello, e nel 69 la accettano al Festival di Napoli e dimostra di essere una brava interprete anche nel genere melodico. Poi c'è un varietà televisivo, un concorso canoro storico della RAI, si fa la domenica pomeriggio, lo conduce un giovane Pippo Baudo e questo varietà si chiama Sette Voci, la mitica Sette Voci. E viva le donne, viva le belle donne, che sono le colonne dell'amore, che sono le colonne dell'amore. Così Lolita comincia a essere abbastanza conosciuta, la chiamano a fare un carosello, è un ottimo indizio di notorietà, è la trasmissione più seguita di quella televisione, lei fa la pubblicità, la reclame per un aperitivo in coppia con uno dei personaggi più amati dello spettacolo, il grande Renato Raschel. Mary Core Americano presenta Renato Raschel in Non facciamo confusione con Lolita. Vorrei primeggiare nell'arte di cucinare, perciò per prendere lezioni oggi ho messo l'inserzione. Cercasi vero cuoco, lunga esperienza per lezioni a domicilio. Eccomi qua, sono René la Maionese, il più grande chef d'Europa. Ieri sera ho servito il conte della Coque, gli ho portato i ravioli, la frittata e alla fine l'ho stufato. Hey hey, ragazzi, chiediamo questa reclama ha molto successo e lei piace perché è fresca, è carina, ha un'aria sempre felice, sorridente, un po' una Brigitte Bardot nostrana, tanto che l'anno dopo diventa la testimonial unica di quell'aperitivo, continuerà per molti anni a prestare il suo volto a quell'azienda. Intanto nel 69 partecipa a un'altra manifestazione canora molto importante in quegli anni, Un disco per l'estate. Tanto per capirci, da Un disco per l'estate venne fuori, non so, Lisa dagli occhi blu di Mario Tessuto, che peraltro diventa un buon amico di Lolita. Lei si qualifica per le serate finali con quella che resterà la sua canzone più famosa, L'ultimo ballo dell'estate. Qui è nella registrazione originale del 69, proprio durante la gara in cui viene annunciata da un giovane ma già molto importante, Gianni Boncompagni. Liberetta, Chiaravalle, De Paolis, L'ultimo ballo d'estate, che canta Lolita. Bravo. Carriera di Lolita arriva a un altro anno decisivo, il 1973, perché viene ammessa al Festival di Sanremo, che quell'anno è presentato da Mike Buongiorno e da Gabriella Farinon. È la prima edizione in cui la RAI impiega le telecamere a colori, c'è l'Eurovisione, anche se va detto che quelli erano gli anni della crisi del Festival di Sanremo, insomma gli anni più bui, quelli prima degli 80, in cui poi Sanremo tornò a essere quello che è ancora oggi. Comunque Lolita canta Innamorata io, scritta ovviamente da Franco Chiaravalle e da Alessandro Celentano, fratello di Adriano. Innamorata io, che cosa dici mai? Non farlo stupido. Un po' gelosa io, non farmi ridere e poi smettiamola. ma nonostante lei canti molto bene, insomma, e la canzone per il contesto di quel Sanremo non era neanche Malvagia, viene scartata, non è in finale. In finale ci vanno Peppino Di Capri, che vincerà il festival, Milva, I Ricchi e Poveri, Gilda Giuliani, Wes Dorighezzi, I Camaleonti. Peraltro tra gli eliminati c'è gente come Sergio Endrigo, Gigliola Cinquetti, addirittura Christian De Sica con una canzone di Paolo Conte. Insomma, lei è in buona compagnia, però questa sconfitta per lei è una delusione insopportabile. Non regge la bocciatura, la interpreta come un fallimento personale, come una dimostrazione del suo poco valore artistico. E naturalmente non è vero, insomma, pensiamo a cantanti che sono arrivati ultimi a Sanremo, a Zucchero, a Vasco Rossi. Anch'io, prima di cominciare a prendermi dei premi, un bel penultimo posto l'ho fatto. Insomma, è infinita anche la serie di cantanti invece che hanno vinto Sanremo e poi sono caduti nell'oblio. Insomma, quindi Sanremo in realtà non è una discriminante di successo, il tempo rende giustizia ai migliori. Però Lolita non si riprende da quella sconfitta, sparisce per 11 anni, non si sa più nulla di lei. Improvvisamente la ritroviamo nel 1984 a una trasmissione di grande successo su Antenna 3 Lombardia, che è una televisione privata che in quel momento stava veramente crescendo nell'affetto della gente, perché intanto c'era Enzo Tortora, ma c'erano Boldi e Teocoli, insomma era una televisione di culto. La trasmissione si chiamava Il Bingo, che era una lotteria molto familiare condotta proprio dal fondatore di Antenna 3 insieme a Tortora, si chiamava Renzo Villa. Ecco un'intervista di Renzo Villa a Lolita. Dunque, innanzitutto buonasera, benvenuta al Bingo. Buonasera. È la prima volta che abbiamo il piacere di ospitarti qui al Bingo. Sì. E come nasce Lolita cantante? Oddio, io nasco una decina di anni fa, forse più. Ho iniziato giovanissima, ero una ragazzina, avevo 16 anni, e incisi un brano degli anni 20, Come le rose, che tra l'altro ha rifatto Patti Pravo in questi giorni. E poi ho fatto un Sanremo, ho fatto 7 anni di Caroselli. A Sanremo ho fatto un brano di Adriano Celentano, Innamorata io. Poi hai proseguito una tua carriera con che cosa? No, poi sono rimasta ferma. Ti sei sposata, scommetto? No, non mi sono sposata. No. Come mai sei rimasta ferma? Sono rimasta ferma perché così ho deciso io di non incidere più dischi, ho deciso di ritirarmi. E poi cosa è successo? Tutto un tratto? Tutto un tratto sono così diventata pazza. Dunque, siccome io sono molto amica di Mario Tessuto. Sì. E lui mi disse: sai Lola, ho un pezzettino allegro per te, dice, vuoi cambiare genere? Ma scusa, sei Lola o Lolita? Lolita. Lolita, bene. Beh, adesso sono cresciuta, Lola. Lola dice, sai, ho un brano allegro, molto simpatico, che andrebbe bene per te, dice, lo vuoi incidere? E io ho detto, ok Mario, proviamo. Ho capito. Dunque, come si chiama questo brano? Sei la felicità. Sei la felicità. Bene, noi speriamo che sia anche bene augurante questo titolo di questa canzone che ci presenta questa sera Lolita per la prima volta nello studio 1 di Antena 3. Non sì, è vero, non mai. Trasmissioni, ma... Ed è una primizia perché è il mio nuovo 45 dopo tanti anni. Lo battezziamo questa sera. Ora incrociamo tutti le dita scaramanticamente per Lolita che ci presenta Sei la felicità. Grazie. A voi Lolita. Grazie. Che assomiglia pericolosamente a Comprami di Viola Valentino, peraltro, fateci caso. Comunque, questa canzone allegra, in qualche modo le dà il modo di decidere di riprendere la carriera di cantante e riallaccia i contatti con alcuni impresari e comincia a fare delle serate nelle piazze. Allora, stiamo parlando degli anni 80 e negli anni 80, insomma, le feste di piazza erano in genere considerate, insomma, un ripiego, un po' l'ultima spiaggia. C'erano palchi molto piccoli, c'era la cassa armonica, cioè un palco rotondo in cui il cantante si esibiva, insomma non era certo la cosa più prestigiosa. Poi con gli anni i comitati organizzatori sono diventati più giovani, oggi ci sono feste di piazza che dove ti sembra di essere a Woodstock, spianate con decine di migliaia di persone, però allora negli anni 80 non era esattamente così, ma tant'è, questo è quello che lei può fare, e si trasferisce da Milano a Lamezia Terme in provincia di Catanzaro, dove c'è anche l'aeroporto strategico per e tutti quelli che devono andare a suonare in Calabria. Affitta una villetta nel complesso turistico La Marinella. Quindi Lolita, anche se in questo momento insomma ha alle spalle una carriera deludente, una grande incompiuta, ha davanti a sé una nuova prospettiva. Nel frattempo ha avuto diverse relazioni sentimentali che sono finite male. Ama stare in compagnia e lo ricorda una sua collega, la cantante Donatella, che con lei canta nelle piazze grandi e piccole dei paesi della Calabria. Io ricordo nelle nostre tournée arrivavamo a casa all'1:30 di notte e immancabilmente diceva: adesso tutti a casa mia, ci facciamo una bella carbonara, ci facciamo una spaghettata. Ecco, per lei non era mai un problema quello di mettersi in cucina, ma soprattutto di avere gente in casa. Quando arriva a Lamezia, Lolita ha 35 anni, è una donna libera, è ancora molto carina, ha una gran voglia di ricominciare, è uscita da una storia molto lunga, però è pronta a ripartire, però ha un segreto, qualcosa che deve risolvere, perché da una relazione poco più che occasionale con un uomo del suo ambiente, Lolita è rimasta incinta, decide anche se ha malincuore di abortire. Chiede consiglio a alcune persone che ha conosciuto durante i suoi primi concerti calabresi e le viene indicato un ginecologo che si chiama Michele Roperto, un giovane medico dell'ospedale di Lamezia. Non sappiamo quanto tempo ci mette, ma non molto, perché Lolita si innamora perdutamente di Michele. Così inizia una relazione clandestina. E Michele è separato dalla moglie, però non è un uomo libero perché è fidanzato. Però sappiamo come vanno certe cose, un colpo di fulmine c'è, parte, lei è molto bella, non si sa con quanto e quale coinvolgimento da parte di lui, fatto sta che i due si mettono assieme. Sentiamo ancora Donatella. Ricordo l'ultima volta che l'ho sentita, era arrivata a Milano, mi aveva detto: donna, non possiamo vederci, sono venuta a casa per prendere delle cose e devo ripartire, e poi dice: ti racconterò, perché forse ho trovato l'uomo giusto per la mia vita. L'uomo giusto per la mia vita, questo dovrebbe essere per Lolita Michele Roperto, ma i risvolti di questa relazione hanno delle incredibili, sono raccapriccianti. Tra poco scopriremo il seguito di questa vicenda terribile dove amore e morte, Eros e Thanatos si intrecciano pericolosamente. Corri, non ti fermare, vola dai monti al mare, con te verrò e dovunque andrai sarò, mi porterai tutto il bene che c'è in me. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando una storia emblematica perché è la storia di una cantante non di successo che parte negli anni 60 con tutti i migliori presupposti, ma non ce la fa. Va al Festival di Sanremo nel 73, viene eliminata e quindi per un po' si ritira, riappare nel 1984 e lì pressappoco siamo arrivati. La cantante in questione, Graziella Franchini, in arte Lolita, una bellissima ragazza che incarnava pieno, diciamo, quel tipo di fisicità, appunto tipo Lolita. Nel frattempo lei è cresciuta e a metà degli anni 80 ci riprova con un 45 giri, che è una canzone dell'amico Mario Tessuto, però è ancora in una vita, come dire, ai margini del grande giro. In questo momento, a metà degli anni 80, la troviamo in Calabria, canta nelle piazze, nelle feste di paese, che negli anni 80 erano come dire, l'ultimo ripiego dei cantanti, però lei ha un carattere solare e gioioso, in qualche modo le si prospetta una vita che dovrebbe essere comunque carina e divertente, invece stiamo andando in braccio a una terribile tragedia. Però in quel periodo le cose le stanno andando bene, ricorda così la sorella Luigina, che viene intervistata da Corrado Augias in uno speciale di molti anni fa. Luigina, signora Franchini, che donna era Lolita, sua sorella? Era una donna, direi soprattutto, molto molto dolce. Aveva un carattere meraviglioso, con lei tutti andavano d'accordo. Direi una cosa invidiabile da chiunque, il suo carattere. Lei non aveva avuto una vicenda molto felice, forse proprio per questo suo carattere. Per esempio, aveva avuto una relazione, ho letto, con un signore che non si era rivelato degno anni prima, con il quale aveva vissuto a lungo, che non si era rivelato degno in tutto di questo. Non direi che era un ragazzo. Mia sorella quel ragazzo l'ha conosciuto durante uno spettacolo e poi hanno convissuto 10 anni circa. Il fatto è che le voleva un bene dell'anima. E lei alla fine lo ha aiutato persino a mangiare, perché nessuno più lo voleva, siccome aveva avuto un crollo psicologico, persino i fratelli lo rifiutavano, se non che mia sorella lo manteneva anche, perché mi diceva: dove lo mando che non lo vuole nessuno? Quindi lei chiude un grande e lungo amore, arriva a Lamezia Terme, si trasferisce in Calabria per poter, insomma, meglio gestire delle serate che erano tutte in quella zona, scopre di essere incinta, abortisce, cioè decide di abortire, ma proprio in questo frangente così delicato, così drammatico per qualsiasi donna, proprio la persona che l'aiuta, che è il ginecologo Michele Roperto, è la persona della quale lei si innamora perdutamente. Però Michele, che è separato dalla moglie, è fidanzato da 6 anni con una studentessa di medicina che si chiama Teresa Tropea e i due si devono sposare di lì a pochi mesi, quindi Lolita e Michele iniziano una relazione clandestina, però in un paese queste cose prima o poi si vengono a sapere. Teresa scopre che il fidanzato la tradisce e qui cominciano a delinearsi dei comportamenti ambigui e discordanti. E adesso ascoltiamo proprio Teresa che racconta quello che, secondo la sua versione, succede. Dobbiamo prima di tutto dire che i miei rapporti si erano molto deteriorati a causa di altri problemi, quindi Lolita non costituiva il motivo più grave perché si arrivasse ad una rottura di questo rapporto. Quindi è stato in un secondo tempo che la storia esisteva, quindi era anche un modo per parlare di questo comportamento ambiguo. Giocava con i sentimenti di due donne. Niente, quando io naturalmente sono venuta a sapere della relazione di questo, ne sono rimasta rammaricata, giustamente come ogni donna. Credo che non dobbiamo certo atteggiarci a donne insensibili, questa è la realtà dei fatti. Quindi niente, ne parlai con lui, anche perché Lamezia è un piccolo centro dove le cose un pochettino si diffondono con molta facilità. E avevo mostrato una certa perplessità nel continuare questo genere di rapporto. Quindi Teresa Tropea, la fidanzata tradita, dichiara che lei era già in crisi con Michele, cioè prende un po' le distanze dal fulcro della vicenda e poi capiremo perché sta prendendo le distanze. E dice che lui si comportava male, non era sincero con nessuna delle due, è una posizione già quasi definita. Insomma, lei lascia Michele, così dice, e che ritorna libero e può procedere nella sua relazione con Lolita. In realtà le cose non sono così semplici, perché Michele non è chiaro, non lascia Teresa, nega il suo coinvolgimento con la cantante e anche Lolita minimizza la loro relazione quando viene affrontata da Teresa, perché Teresa la affronta. Quindi si passa da una normale storia, diciamo, di tradimento a una vicenda orribile, terrificante. Le tinte si colorano di rosso, che è il colore della passione, ma anche quello del sangue. È il 27 aprile 1986, una domenica. Lolita è attesa in un paese che si chiama San Leonardo di Cutro, nel Crotonese. Deve fare un concerto, un'esibizione musicale. Lei è un'artista molto puntuale, eppure non si presenta. Il suo agente la va a cercare a casa, bussa e nessuno apre. E pensa che la ragazza si sia dimenticata del concerto. La mattina dopo si preoccupa, chiama Michele. Lui non può muoversi perché deve dare la sua reperibilità, ma consiglia all'uomo di provare a entrare dal giardino. La gente si reca insieme a Italo Montesanti, che è un amico di Lolita, a casa della donna. Montesanti scavalca il muretto della villetta e entra in casa. La scena che si presenta ai suoi occhi è terrificante. Lolita è nel bagno in un lago di sangue, è morta col ventre squarciato. Il giornalista Pantaleone Sergi, che all'epoca si occupa del caso, intervistato da Augias durante la trasmissione Telefono Giallo del 1989, dedicata proprio alla vicenda di Lolita, racconta così la scena. Direi che è stato un delitto inusuale anche tra quelli che accadono purtroppo normalmente in Calabria. È un delitto che non ha nulla di calabrese. Se vogliamo fare un paragone, potrebbe essere un delitto tipo quelli attribuiti al cosiddetto mostro di Firenze. È un delitto brutale, orrendo. La ragazza ha avuto 12 ferite, di cui una, quella mortale, l'ha avuta al basso ventre, è stata una ferita da taglio, con uno squarcio profondo. Di questo tipo, ecco, per esempio. Siccome il collo di un damigiano di questo tipo è stato trovato lì nel bagno dove la ragazza, la cantante, è stata uccisa, si tende a dire che è stata ammazzata con un bottiglione tipo questo, con il collo di un bottiglione così. Potrebbe essere stata usata però anche un'arma da taglio, però non si sa. Tracce impronte, tracce di sangue ovunque. Fin sulle pareti, sui sanitari, dappertutto, un lago di sangue, proprio questo è stato trovato. Lolita è morta, assassinata brutalmente, il corpo martoriato da 12 ferite di arma da taglio, di cui una al basso ventre, che è uno squarcio. Una violenza inaudita si abbatte sul corpo esile della cantante e non le lascia via di scampo. La scena appare in tutta la sua crudezza agli inquirenti che accorrono sul posto. Lei ha tentato di difendersi, ha lottato, ma i suoi assassini erano in due. L'hanno trattenuta per le braccia e difatti non hanno tagli o ferite, ma dei grossi lividi. Ha scalciato tanto che le sue gambe sono un taglio unico, ma alla fine i suoi aggressori hanno avuto la meglio. Scena terrificante, è un delitto compiuto con un'efferatezza inaudita, ma chi è che può avere fatto questo? Cosa può avere scatenato una furia così bestiale? Chi è che voleva Lolita morta? E viene subito scartata la pista della rapina, intanto perché non c'è stato scasso. Poi Lolita non era ricca, non possedeva soldi o gioielli. La violenza con cui è stata uccisa, soprattutto quello squarcio nella zona pubblica, è quasi, sono uno sfregio, e gli inquirenti vengono subito indirizzati verso il delitto passionale. Si pensa immediatamente alla fidanzata tradita, alla rivale in amore, a Teresa Tropea. A Lamezia si sapeva che c'era questa rivalità, si conosceva anche il grande, diciamo così, disappunto della madre di Teresa, Caterina Pagliuso, che aveva visto arrivare da fuori questa straniera che aveva rubato il fidanzato alla figlia. E Caterina Pagliuso non è una qualsiasi, è la sorella di due boss dell''Ndrangheta. I Pagliuso sono una famiglia di rispetto, come si dice in Calabria, sono molto conosciuti a Lamezia, che è una zona allora ad altissima densità mafiosa. Il giornalista Marcello Mento, che all'epoca si era occupato del delitto, racconta così. In quel periodo si respirava paura a Lamezia. se aveva veramente paura sia a circolare a Lamezia, cioè le persone estranee, i giornalisti che vennero da fuori a Frotte, tutti gli inviati speciali dai maggiori giornali italiani, Repubblica, Corriere della Sera, Messaggero, mi ricordo, voglio dire, fare domande e ottenere risposte che fossero, era assolutamente impossibile, e gironzolare attorno alla villa di Marinella venivi guardato male. Quindi c'era questa atmosfera di, come dire, se era creata o se era reale o semplicemente percepita, questo è un altro fatto, comunque esisteva. E così i giornalisti, che arrivano numerosissimi dal nord, da Roma, vanno a sbattere contro un muro. È una profonda omertà. Del delitto di Lolita non parla nessuno. Le leggi della mafia si conoscono bene, come sottolinea Pantaleone Sergi. È considerato un affronto l'abbandono del partner, per esempio, negli ambienti mafiosi, è considerato un affronto al clan e non tanto alla persona. E quindi in questo senso cerca anche di intervenire, di ricondurre, diciamo, sulla buona strada chi sbaglia. Un affronto al clan, ricondurre sulla buona strada chi sbaglia e toccare l'uomo di una ragazza che fa parte di una famiglia mafiosa è un affronto, e non si colpisce l'uomo al quale si dà una possibilità di ravvedimento, poi l'uomo è sempre l'uomo, si colpisce la donna, la straniera. Qui si concretizza tutto l'assurdo di un pensiero contorto per cui la colpevole di questo sgarbo è Lolita e non il fidanzato infedele. Quindi le indagini si concentrano sul delitto passionale, su Teresa Tropea, sulla madre Caterina Pagliuso, anche perché esiste un precedente: un mese prima dell'assassinio di Lolita, Teresa e sua madre aggrediscono la cantante mentre è a casa sua con Michele. Il fatto viene raccontato dallo stesso medico ai carabinieri, però la testimonianza di Teresa è diversa perché lei nega di avere aggredito Lolita. E lui se ne stava in un angolo a discutere con me tranquillamente. Non credo che, se fosse accaduto tutto questo, un uomo sarebbe stato in disparte senza intervenire. O è un vigliacco oppure... Scusi tanto, prego. Lui stava discutendo con lei tranquillamente dove? A casa di Lolita? A casa di Lolita, perché lui... Ma non è strano che lei vada a casa della rivale a discutere con il suo fidanzato? Prima di tutto Lolita non era una mia rivale, perché potevo anche essere io la rivale di Lolita. Ah, beh, certo, insomma. Io avevo già manifestato le mie perplessità. Parlava di questa donna usando dei termini poco appropriati per un uomo che ama. Per esempio? La definiva in un certo modo. Dica. E io gliel'ho detto a Lolita, infatti. Glielo dissi in un mio incontro. Quest'uomo non merita né la tua stima né la mia. Cioè diceva che era una poco di buono, sì. Diciamo. Ecco. Non ho che farmene di un uomo del genere. E oggi come oggi sono contenta che sia andato così, anche se la mia vita è stata, diciamo, molto... è stata distrutta da questo fatto, un dramma. E io volevo dire anche che sono molto vicino alla sorella di Graziella Franchini e la pregherei di credermi, perché la sua sorella è stata vittima, diciamo, di... E perché è morta, ma io e mia madre siamo morte dentro. Da un lato dice sono contenta che sia finita così, che è una frase un po' discutibile, dall'altro dice io e mia madre siamo morte dentro, si riferisce al fatto che le due donne vengono accusate di omicidio, arrestate. Siamo nel 1986, non ci sono ancora, e questo era un punto chiave, non ci sono ancora le analisi moderne che consentirebbero di determinare con certezza la presenza o meno sulla scena del crimine delle due donne. Quindi vengono fatte delle supposizioni, si va a gruppi sanguigni, il sangue trovato viene analizzato, è tutto del gruppo A, che è il gruppo di Lolita, ma è anche il gruppo di Teresa Tropea, però questo è solo un indizio ovviamente, non una prova. I legali della famiglia sostengono che, della famiglia Franchini, sostengono che la qualità del sangue è troppa perché sia solamente quello di Lolita. I difensori si appellano al fatto che le due donne hanno lo stesso gruppo sanguigno. Ripeto, l'esame del DNA compare in Italia solo nei primi anni 90, quindi una certezza di chi sia, diciamo, di tutto quel sangue non c'è. Negli atti delle indagini non vi è traccia di eventuali ferite della tropea e bisogna anche aggiungere che ormai non è rimasto più niente di quei dati e quindi il caso viene poi considerato chiuso ed è come dire un peccato, oggi si riaprono casi anche a 30, 40, 50 anni di distanza. Comunque, la difesa della studentessa porta come prova un altro fatto che riguarda l'ora presunta del delitto, come racconta l'avvocato Giuseppe Pandolfo, che è legale di parte civile al processo. Perché era importante l'ora del delitto? Perché era legata all'alibi accertato di Teresa Tropea. Da una prima indagine l'ora fu fissata tra le 15 e le 17, poi intervenne immediatamente una consulenza tecnica di parte civile che noi facemmo purtroppo ex post, cioè un'indagine sulle indagini già svolte, determinò che l'ora del delitto era da determinarsi molto più indietro nel tempo e quindi dalle 13.30 fino alle 15.30. Teresa Tropea risultava essere partita dalla stazione di San Biase e per recarsi a Messina. Risultava essere partita perché vista partire, risultava essere partita perché riconosciuta da una persona sul treno, ricevuta dalle sue compagne di università alla stazione di Messina. Quindi su questo che era partita alle 14.40 non c'era nulla. La Corte d'Assise ragionò che non c'era il tempo né era pensabile che questa persona avesse agito con una tale freddezza da riuscire a compiere tutte queste operazioni in un tale breve lasso di tempo ed arrivare al treno fresca come una rosa per partire. Insomma, l'alibi di Teresa viene confermato, anche se l'ora del delitto viene determinata con metodi un po' empirici, non sicuri. Comunque, il processo si svolge nel giugno del 1988 e le due donne vengono assolte per insufficienza di prove in primo grado dalla Corte d'Assise di Catanzaro. Vengono assolte in appello e in Cassazione, addirittura con formula piena. Teresa Tropea e Caterina Pagliuso per la legge sono innocenti. Chi abbia ucciso Lolita rimane ancora oggi un mistero. Ci sono storie spesso sconosciute che sono lo specchio di un paese, di un tempo, di un periodo, e come la storia di Lolita, che va raccontata proprio perché in qualche modo, anche se dolorosamente, è bello sapere qualcosa di più su un certo mondo e su una certa attitudine. Chissà, oggi forse sarebbe possibile scoprire chi fu il vero assassino di Graziella Franchini, cioè di Lolita. Se avete altre storie da segnalarci, fatelo come state già facendo. Scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it oppure venite a cercarci sui social di tutti, compresi i miei. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno.